Intanto noi abbiamo provato a mettere insieme tutti coloro che si rifanno a un ragionamento di sindacato conflittuale, a coloro che stanno fuori, diciamo, dal nuovo patto sociale che sta emergendo in questo paese, seppur nascosto, diciamo, da una propaganda molto centrata chiaramente sul recovery fund e sulla pandemia, che è un patto sociale che ripercorre quello del 1993, quello che ha dato vita a un trentennio di concertazione sindacale che ha ridotto i lavoratori, che ha disarmati lavoratori di fronte a padronato e controparti. Un patto sociale che è stato firmato dai soci sindacati, CGL, CISL, UIL, UGL e chiaramente da tutte le associazioni datoriali e dal governo. Su questo abbiamo provato, dicevo, a mettere insieme tutti, abbiamo fatto un appello a tutti, alcuni hanno risposto e quindi siamo molto contenti di questa cosa, anche perché forse per noi vuol dire proseguire in un percorso di unitarietà in una situazione per i lavoratori molto molto difficile, molto molto complicata. Le parole ordine sono quelle che trovate anche nella locandina, insomma, che possiamo tradurre con uno slogan vecchio ma attuale, che noi la crisi non la paghiamo. E qua siamo di fronte a un baratro, insomma, iniziano già con la presentazione del recovery fund da parte del governo, iniziano a intravedere bene quali sono le politiche, come dire, ormai imminenti, e il prezzo che economico e sociale lo pagheranno le classi popolari se non riescono in un qualche modo a dare una risposta, appunto, di conflitto, di resistenza. Questo è stato il nostro tentativo del primo maggio, è un tentativo che non si può fare da soli, bisogna abbandonare ogni velleità autoreferenziale, altri non l'hanno fatto e sbagliano.